5 e. Ascolta e continua. Quell'anno tu avesti molte cose da fare. Anche voi aveste molte cose da fare? Quell'anno tu avesti una promozione. Anche voi aveste una promozione? Quell'anno tu avesti una brutta crisi. Anche voi aveste una brutta crisi. Quell'anno tu avesti molto lavoro. Anche voi aveste molto lavoro? Quell'anno tu avesti molti impegni. Anche voi aveste molti impegni? Quell'anno tu avesti molti premi. Anche voi aveste molti premi?